Non potevamo iniziare che con un delirio di questo tipo. Erkki Kuremieni, spero di averlo detto più o meno bene, ma non l'ho detto bene sicuro. Finlandese, personaggio assolutamente eccezionale, veramente anticipa non so di quanti mila anni luce quelle che saranno poi molte sperimentazioni proprio anche di quelle zone, tra l'altro, perché se andiamo a pensare a Pansoni, che tra l'altro l'hanno anche citato come uno dei loro grandi, insomma, maestri, dei loro grandi ispiratori, Erkki Kuremieni, proprio per un suono assolutamente lancinante per l'epoca. Stiamo parlando di sperimentazioni tra il 63 e il 73 in Finlandia, tra l'altro personaggio a doppio filo, come molti americani, tra l'altro, parallelamente, che uscivano da centri di ricerca oppure addirittura da industrie legate alla alta tecnologia dell'epoca. Ingegnere, ha lavorato per vari anni alla Nokia, quindi a tutto il cablaggio, a quello, a scientificità data appunto dalle telecomunicazioni e anche proprio dal tra virgolette dell'hardware, proprio appunto nel vero senso della parola, quello che è il cablaggio. Sì, sì, poi oltretutto si è formato come scienziato nucleare, insomma, fa abbastanza pensare, è un personaggio veramente folle. Sì, in effetti molta tecnologia, poi se pensiamo ad esempio anche al nostro Gadda, no? Sì. Tanta avanguardia, poi passava appunto anche da questo aspetto tecnologico, che riusciva a staccarsi miracolosamente, ma non era un miracolo, era una questione sociale e una questione anche politica, perché no? Cioè, quelli che adesso, insomma, si occupano semplicemente di tecnica e tecnologia, all'epoca riuscivano anche ad andare oltre e quindi a farsi anche artisti, a farsi anche filosofi di un'idea di tecnologia che potesse essere liberatoria. In questo caso Kuremieni si inventa, insomma, una elaborazione proprio partendo dal suono frequenza, quindi veramente anticipa di tanti anni quelle che saranno le sperimentazioni non solo di Pansonic, ma di buona musica creata tra la fine dei 90 e gli anni 0, se pensiamo a Ryoshi Keda, a Noto, a tutta buona parte della Rusted Norton, della Mill Plateau, che è proprio fatto della frequenza e della modulazione di questa, se non una scuola, comunque una corrente anche piuttosto forte, poi conosciuta anche per tanti versi come glitch music. E da Kuremieni, e quindi dalla Finlandia con furore, potremmo dire, anche perché insomma il pezzo l'avete sentito, era veramente assurdo, anche cambiando poi rispetto alle le atmosfere molto astratte, anche cosmiche, che abbiamo sentito nella prima parte. Sì. Tra l'altro il pezzo di Artemiev insieme a Creci era proprio un tema legato a un film che era Cosmos. Cosmos, e poi abbiamo sentito il loro figlioccio Antanas Jasenka, che abbiamo avuto poco tempo per presentare, adesso diciamo qualche cosa, è veramente un figlioccio vero e proprio. Non a caso l'etichetta con cui spesso ha fatto uscire dischi, lo stesso con cui ha iniziato a proprio la sua carriera musicale Antanas Jasenka, è proprio l'Electroshock Records, che è la stessa etichetta che poi ha fatto uscire i lavori soprattutto di Creici, ma anche appunto la stessa compilazione che abbiamo presentato proprio all'inizio, a metà della prima parte della trasmissione, quando abbiamo presentato appunto appunto l'archivio del synthesizer Hans e i precursori sperimentatori degli anni 60 e inizio 70 in Russia, nel periodo appunto di maggiore apertura del sistema sovietico, e abbiamo presentato appunto Artemiev e Krejci, e la stessa etichetta appunto ha lavorato con questo giovane autore, musicista estremamente eclettico, che abbiamo potuto ascoltare solo in parte, dato che poi è partito, purtroppo spesso succede quando meno te l'aspetti, un po' in anticipo il GR di Radio Popolare, dunque abbiamo perso ulteriore tempo, ma avremo altre occasioni per poterlo mandare, anche perché è uno degli autori dell'est più interessanti, perché si muove sicuramente su una scena elettronica molto molto avanzata, tenendo conto che riecheggiano molti elementi delle sperimentazioni anni 60-70, soprattutto quelle legate alla sua terra d'origine, la Russia dell'Est, ma si sentono anche forti influenze, ad esempio a livello di musica industriale, ma anche minimalismo, rumorismo, dimensioni anche concettuali. Non a caso lui lavora anche molto come compositore per musiche per teatro, per film e anche per installazioni sonore, dunque un artista tutto tondo, come dicono in tanti. A me insomma, fa abbastanza ridere questa definizione, però si fa capire che giri intorno, che giri intorno, tutto tondo. Se uno vuole stare nel quadro non va bene, no. Il quadrato, vabbè, perché sono quattro, geometria tondo non è più di moda, quel tipo di geometria. Comunque insomma un autore da seguire, perché è estremamente interessante, ha fatto uscire circa una decina di album dal 2002 e sono tutti molto diversi uno dall'altro. Si nota che c'è una attenzione verso la sperimentazione senza avere limiti rispetto anche a delle dimensioni musicali e ritmiche. Non a caso un disco che mi è capitato di ascoltare nella selezione ha delle chiare influenze legate alla techno, le ha sviluppate in maniera assolutamente originale. Avremo modo di ascoltarlo. Noi abbiamo ascoltato un pezzettino, un frammento da Deus Ex Machina uscito nel 2002, proprio l'album di esordio, ma appunto io ho avuto modo di ascoltarmi Sonic Machine del 2006 ed è sicuramente interessante, per cui avremo modo di inserirlo sicuramente in altre occasioni. Andando invece adesso a bomba per parlare del prossimo autore, ci spostiamo, abbiamo aperto con questa dimensione molto potente, molto schizzata e delirante di Erik Kurieniemi, adesso non so come si dice, però va bene, Kurieniemi, Erki Kurieniemi, ok, sì, finlandesi sono terribili, hanno dei nomi assurdi, ma forse direbbero la stessa cosa di noi, non si sa. E invece adesso presentiamo veramente un grande personaggio che non è particolarmente conosciuto, noi non ci siamo mai incappati, ma questo dimostra che quanto si possa sempre ricercare, qualcosa si trova sempre, probabilmente succederà anche quando arriveremo a 90 anni, se ci arriviamo. Questo è un autore indiscutibilmente tra i più importanti della scena della sperimentazione elettronica in Sud America. Si tratta di George Antunes, nato appunto nel 1942, ed è stato molto importante perché ha costituito, ha costruito e ha realizzato il primo vero centro di ricerca sperimentale elettronica in Brasile, esattamente nel 1965, creando appunto Chromo Music Research Studio appunto a Brasilia, ed è stato sicuramente molto importante prima di tutto per questo motivo, ma poi perché ha collaborato anche con centri di ricerca importantissimi come quello francese, gestito è portato avanti da Pierre Scherfer, il famoso gruppo di ricerca musicale a Parigi, ma ha lavorato anche a Buenos Aires lavorando con altri centri di sperimentazione, addirittura con due italiani importanti come Umberto Eco e Alberto Ginastera. Per cui insomma le sue collaborazioni sono sicuramente molto importanti, ma al di là dei centri di ricerca, la cosa interessante delle sue composizioni, delle sue ricerche musicali musicali è quella di portare avanti un discorso di musica elettronica appunto molto potente, dove c'è una continua commistione di elementi concretisti, di suoni cosmici, di elettronica quasi improvvisativa con delle dimensioni anche sinfoniche. Il brano che abbiamo selezionato è tratto da un splendido lavoro uscito nel 2003, ma in realtà è una compilazione perché è andato a pescare i lavori del passato, dunque una sorta di recupero delle sue composizioni. Si tratta musica elettronica, proprio si chiama così, e abbiamo selezionato un Savage Song Heard in Brazilian Electronic Music. Perfetto, bravo, mi hai aiutato perché stavo andando in palla e d'altronde non sto benissimo, questa è una scusa perfetta. Il brano che abbiamo selezionato è una traccia che si chiama Autoretrato sobre Paesaje Porteño. Questo è già più facile. Un portoghese eccezionale. I'm going to go to the next one. Thank you. Restless dovis in sensidare, resent in floris sic vestis ar, resent in dos in vest leo, vecum sensidare sic in dovis in sensidare, resent tonus in trepus sic in soris, verus in vest colaris sic in cave in lus in dare, resent in sensibaricus in tonus in sensibaricus in dros in sensibaricus in tonus in stil, resent blacus in Vesit floris in terri, vers floris in necessari in sol, vesit in sovis in pettori. Vesit in stari, vesit in rus flor, vesit in flacus in trot in stelo, vesit in stor, nocis con os in terri, simple claus in scopus in stari, vesit in son quotis in stari. Resum sententes con nobre tempus et rosa. Resum sententes con tombe. Resum les mutando con tu pobre, si que tivesse mudar en claro. Rosa et per sol. Resum les resumar con tor. Vixerum et per sal. Luergo et sal, sol, gri, claro, sin tombe. Sin con sal. Resum sverus con os sal. Viro un loro, iro. Viro sin tario, iro, sol, un loro. Viro os laros, iro. Viro es resumar. Virus reviter, virus resistar o sol, virus reviter o sol, virus reviter o sol, reviter. Virus reviter o sol, virus reviter o sol, virus reviter o sol, virus reviter o sol, virus reviter o sol, virus reviter o sol, virus reviter o sol, virus reviter o sol, virus reviter o sol, virus reviter o Virus is that rare, virus is there, virus is all with welcome darius, Vietnam, Vergus now, since it's darius, well to see the darius, Vergus is all with there, Vergus is the dome darius, Dome to the end of Jay, Vergus is all with all the Jay, so the Jay, Jay is all with the Jay, Gold is the Jay, Jay is the Jay, Look at the darius, the Jay, Viu esse pitote de gênio de idade, viu esse dado de desejo, de novo, gímpio, de diário, general, generoso, de diário, de líder, general, general, general, geral, general, general, general, geral, general, general, general, general, general, general, deixa os corpos, cuidados, todos os dias, mãos, cocheiros, nomes, rãs, gangues e coros, mentiras, coitados, perdes, avós, camas, e sem os corpos, deixa os braços apertados. Por que fez com o seu saco? Por que eles levaram essas coisas que fizeram? Para o que foi um prestário, anos e longos, e velhos anos, anos longos, Vírus pesado, amor, amor que o caso torna se devo pensar, amor, amor, amor, ame, amor, amor, ame, amor, amor, amor, ame, ame, ame. Eh sì, un grande drone finale, un brano estremamente interessante, molto potente, con cambi continui. C'era a un certo punto una parte molto molto forte dove appunto c'era una registrazione di qualcosa, di qualche comizio, di qualche cosa sicuramente di politico, almeno così abbiamo intuito, anche perché sicuramente in Sud America, insomma, anni 60-70 ne sono capitate di tutti i colori, tra colpi di Stato e robe fasciste, insomma, sicuramente qualcosa legato a questo, anche perché gran parte dei musicisti d'avanguardia, sperimentali, contemporanei, elettronici, erano sicuramente schierati, non credo. Beh sì, buona parte dell'avanguardia. Ecco, insomma, cioè, l'avanguardia era un po'. Anche perché ebbero già problemi proprio in quegli anni lì, tra l'altro, tutti i vari tropicalisti, Gaetano Veloso, buona parte fu cacciato, insomma, furono cacciati dal Brasile, la dittatura, sì. Come si chiamava? Sai che non mi ricordo, anche io stavo pensando prima, perché conosciamo molto bene Cile, Argentina, però Brasile era un altro. Batista può essere. Boh. Vabbè, andremo a vedere. No, non Argentina. Ah, Batista Argentina, no. Vabbè, adesso sì, perché stiamo per parlare d'Argentina. Dunque stiamo arrivando là, ma adesso non mi ricordo, può essere che hai ragione tu, boh, sono un po' rinco. Comunque, ritornando al punto, uno splendido lavoro, questo di Savage Songs, uscito per la Pogus Productions, realizzata questa compilazione nel 2002, ma sono tutte registrazioni dello stesso compositore, che vanno dal 1961 al 1970, in particolare questo brano che abbiamo ascoltato, Autoretrato sobre paesaje porteño, del 1969-70. Bene, continuando quindi questo viaggio dentro il Sud America, a questo punto siamo partiti dalla Jugoslavia, Russia, poi Finlandia nella prima parte e ora Brasile con Antunes, e a fianco, insomma, al Brasile, Antunes per tante tante faccende, non per altro che per essere il secondo paese più grande del Sud America, ovvero l'Argentina, e tra l'altro anche perché Antunes ha avuto modo probabilmente anche forse di conoscere Orazio Vagione, perché prima stavamo parlando di Buenos Aires. Vagione, Orazio Vagione, anche lui un personaggio piuttosto inquieto tra Argentina, Europa, soprattutto la Francia. Lo dicevamo un po' all'inizio di trasmissione, molti sperimentatori si avvicinarono poi, o addirittura andarono proprio in Francia per continuare le loro sperimentazioni, proprio perché è molto sensibile Parigi, quella Parigi insomma concretista, quella che partendo da Schaffer arriva addirittura fino ai nostri giorni con la INA GRM, appunto, passando per Boulez e quanti altri, insomma, si sono hanno insomma avuto modo a che fare con questo centro di incredibile importanza per le musiche del Novecento. Orazio Vagione è appunto argentino, fondato l'Experimental Music Center of University of Cordoba, appunto paese, cioè città dove nasce appunto il nostro Orazio. Anche lui, come Antunes, dà questo valore aggiunto alla potenza sonora, quasi sperando di non dire una fesseria, così un'impressione, così forse probabilmente la musica folclorica molto comunque potente latinoamericana ha dato anche, come dire, stimolo appunto a rendere elettronica quella ritmicità frenetica, quella frenesia, quel caos controllato che le musiche, insomma, sudamericane ci hanno sempre informato, no? E Orazio Vagione, un po' sulle orme anche di Antunes, anche lui elabora una sorta di collagismo. Abbiamo sentito una parte dello splendido pezzo di Jorge Antunes, che proprio lavorava sul collage. Un collage poi magari più politico, rispetto più direttamente politico rispetto invece a quello che abbiamo sentito prima, ad esempio, di Jagodic jugoslavo, che era magari un più astratto, più astrattizzato, qua magari si voleva utilizzare il sonoro vocale e proprio la documentazione, quasi il field record. In questo senso sono stati anch'essi molto anticipatori rispetto a un utilizzo del field recording anche in chiave appunto documentaristica, politica, e abbiamo avuto anche esempi eccelsi anche in Italia, se pensiamo a Luciano Berio. Ci andiamo a sentire quindi Orazio Vagione.

dal Brasile all'Argentina fino adesso ad arrivare al Perù. Abbiamo appunto, perché tu vai in Perù, eh? sembrava così la presentazione di un programma tipo i programmi dell'Accesso degli anni 70. No, più che altro sembrava uno dei, non so se va ancora in nome, ma penso di sì, quello dei viaggi, no? Ah, però facciamo fare i viaggi musicali adesso. Ma secondo me, quelli che i viaggi all'estero, quelle... Sì, tipo chi li mangiare, oh, no? Mamma mia, robe lì. Ti ricordi? Cioè, tipo anche Serena Variabile, quello che gira, quello che ma tu ti ricordi solo le cose vecchie, no? Chi li mangiare non è così. Penso che lo facciano ancora fino a due vabbè, anni sì, fa, una roba così. Diciamo. Comunque, siamo passati da Brasile a Argentina. No? Guarda, mi sta di una simpatia. E noi facciamo i viaggi musicali stando fermi, però le avanguardie musicali, immaginatevi l'Argentina di Vagione, che poi Vagione insomma si può anche Vagione, appunto Vagione, bravo, il Brasile di Jorge Antunes e il Perù de Coimbra detta Zico, c'era il campionato del mondo, sì, del di calcio, e anche il Perù ha fatto la sua figura nei passati mondiali. Tu che sei tu, perché adesso vedo delle carte. Se volete chiedere carte da briscola, anche anche che carte di proprio da 3-7, per non dire di stop, insomma, carte antiche, carte false, soprattutto. Sì. E, no, dico il Perù, cosa fa? Perché tu sei tutto di calcio. Sì, il Perù arrivò un anno, non arrivò mai a grandi risultati, però un anno arrivò fino ai quarti di finale mondiali. Ah, addirittura, Perù. Poi mi ricordo vagamente un Italia-Perù. Mamma mia, che brutta partita, sì, dell'82. Mamma mia, che schifezza. Vabbè, così svegliamo questi arcani qua. Svegliamo arcani, misteri. Comunque, tornando a bomba, sì, vecchietti, insomma. Se fossimo dei vecchietti, allora. Purtroppo no. Napolitano, siamo, cos'è allora? Siamo i nuovi giovani. Una mummia del 2000 avanti Cristo. È una mummia. Che è un po' una mummia un po' brutta, È una mummia, lì bisogna stare attenti, perché quando si parla vero, di PC, ma soprattutto Presidente della Repubblica, poi Presidente della Repubblica, stai attento, poi non si può, giusto, vengono con i manganelli, ci picchiano tutti, fare così, va bene. Allora non si può parlare, andiamo avanti. Comunque con puoi pensare, però posso pensare in silenzio, va bene. Allora, il personaggio che abbiamo appena ascoltato, che abbiamo mixato in parte con Orazio Vagione, che abbiamo ben presentato come autore argentino, ci siamo spostati appunto in Perù e abbiamo trovato César Bolanos, che abbiamo ascoltato in due frammenti. Uno era Intensidad y Altura e Flexum, la seconda traccia che abbiamo ascoltato. Questo è un autore importantissimo nella scena peruviana, ha fatto e realizzato questo album che è una sorta appunto di storia di musica sperimentale, collegato ovviamente alle sue composizioni. Dunque, Peruvian Electroacoustic and Experimental Music 1964-1970, doppio CD della Pogus Productions, dove appunto gran parte dei lavori sono stati realizzati dallo stesso e poi interpretati da altri musicisti e collaboratori. E il primo brano che abbiamo ascoltato è interamente un brano costruito con nastri, dunque un brano interamente, come viene detto, for tape, realizzato all'Istituto di Tella Buenos Aires, dunque collegamento proprio all'Argentina. Ma non a caso, perché lui ha lavorato molto in Argentina. Anche il secondo brano che abbiamo ascoltato, il primo appena citato del 64, mentre il secondo Flexum 1969, creato appunto per strumenti a fiato, archi, percussioni e sempre lavoro su nastro, dunque tape. Anche questo è stato praticamente realizzato a un festival di musica contemporanea, all'Istituto di Tella, sempre a Buenos Aires, nel 69. E non è un caso, perché in Perù non è che ci siano queste grandissime possibilità, anche in termini proprio del passato, di realizzare particolari centri, istituti. Lui inizialmente ha lavorato proprio in Argentina, collaborando appunto a Buenos Aires con i vari centri creati di sperimentazione, di ricerca elettroacustica ed elettronica, E poi però ha avuto la capacità, intorno alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, comunque di tornare in Perù e di portare avanti praticamente all'interno della facoltà di comunicazione, scienze delle comunicazioni all'Università di Lima, dei corsi di sonorizzazione, di ricerca sonora. Non è riuscito a creare dei veri e propri centri permanenti, strutturali, però è riuscito a riportare le sue esperienze, le sue capacità, le sue competenze all'interno della facoltà dell'università, senza però appunto riuscire a realizzare un centro come in Argentina o in Brasile, come abbiamo visto Giorgio Antunes o lo stesso Vaggio nell'esperienza strettamente argentina. In generale poi ha lavorato moltissimo per teatro e per il cinema, dunque realizzando effetti sonori, colonne sonore, partiture musicali e partiture anche elettroniche ed elettroacustiche in teatri appunto e in film, oltre che per la televisione, che è una caratteristica anche molto comune di grandi compositori elettronici, squisitamente elettronici degli anni 60-70. L'altra volta prendevamo proprio il caso di Hitchcock, di Uccelli, di Oscar Sala. Sì, perché molti sperimentatori trovarono sfogo poi attraverso il cinema, perché cercava sonorità nuove, stupefacenti, quindi tante volte. Un'altra particolarità che riguarda anche Bolanos è che molto spesso c'entrava la telefonia nel... È vero. Questo lavoro è stato proprio prodotto tra l'altro dal Centro delle Telecomunicazioni peruviano. La Bell Telephone, ad esempio, in America produsse comunque, fu particolarmente attenta anche per fini di profitto, detta come va detta, a far sperimentare Max Mathieu su appunto quelle che potevano essere implementazioni tecnologiche. La musica d'altronde implementa appunto le macchine in termini di tecnologia, se pensiamo anche ad esempio alla nostra Olivetti, e i computer spesso venivano utilizzati anche da musicisti, proprio c'era anche insegnato Albert May, tra l'altro, che abbiamo avuto l'onore di ospitare qua appunto 451, andatevi magari a ritrovare anche la puntata, dove accennava questa cosa, il fatto che andassero con Grossi e con altri all'Olivetti di notte per poter utilizzare appunto i computer, e d'altronde appunto anche abbastanza spinti in questa ricerca, anche appunto nel caso di Bolanos, e c'è questo aspetto insomma tra ricerca tecnologica tout court e anche finalizzata insomma è un'idea di profitto, tant'è che poi quando si inizia a fare il profitto magari si ferma anche la ricerca se non insomma, oppure si restringe in termini insomma biecamente merceologici. Quegli anni, e tra l'altro un'altra particolarità, stiamo quasi trattando tutte cose che vengono dalla seconda metà degli anni del decennio del 60, quindi periodi di grandi mutazioni sia in termini insomma sociali, in termini di grande implementazione tecnologica, sia in termini di anche contestazione, di vedere insomma anche in chiave dialettica appunto un ribaltamento sociale di quella tecnologica, quindi creare anche un piano liberato, forse più in Occidente che all'Est, tornando appunto all'Est Europa e tornando in Polonia, seppur insomma accennavamo prima, magari dopo ve lo raccontiamo anche meglio, perché sennò qua stiamo a parlare veramente la mezz'oretta. E in Polonia e a Varsavia in particolar modo ci fu questo grosso centro, tra l'altro Wisniewski, Zbigniew, veramente stasera ci stiamo lanciando in pronunce impronunciabili per noi, però tant'è che ci proviamo, fondò questo centro Radio Studio Warsaw, e tra i suoi grandi allievi ci fu questo Uzienik e Rudnik. Dopo parleremo un po' anche di una faccenda che prevede insomma vari personaggi, Però insomma, di certo c'era un'area differente, seppur sperimentale. Comunque magari dopo intenderete meglio cosa, dove vogliamo andare a parare. I'm not going to be able to do it. Ach Jezu, kochany drogi, ja nie widzę na oko, ja i tak jeszcze życia, jeszcze zrobię, ja tak nie zrobię, jak kiedyś robię. Ja dziś to tak, jak się mnie uda dopiero, tam patrzę okiem jak słonko jednym, bo jednym nic nie widzę wcale. I jeszcze zrobię takie, nikt nie umiał, to uda mnie się wszystkie ponauczali, bo ja 65 lat robiłam, bo nie mam już pamięci. A masz partyturę? Że ja taka była zdolna do wszystkiego i jeszcze... Ostatnią jeszcze robiła, już nie robiła, to jeszcze robiła, siwakiem robiła, do ciasta. A masz partyturę? Nikt tego nie robił, później się uda, mnie już nauczyli. A gdzie pani się tego nauczyła? A ja się nauczyła sama siebie, pani. Сама себе. Я с тех 10 пальцев я жила. А маешь партитуры? Бо я не могу говорить, бо уж не мам зубов, то я не могу. И я в таких смутках, таких трудностях, так, и так еще прожила, еще жила. А маешь партитуры? Мовię, бежьте, мовię, что хотите. Для каждого добра и так. То пани мови, что это остатнє, уж что пани... Zrobiła? Już pani więcej robić nie będzie? A jak będzie ciepła, to jeszcze po parę sztuk. Jeszcze nie będzie, choć może i będę żyła to dla państwa. Może jakie przejdzie. Niech zobaczy, że ja robię, że ja tego, że ja robiłam takie. Niech będzie moja pamiątka. Jeszcze po parę sztuk. Mówię, trudno, no co zrobić? Mówię. Zgadać się trzeba, że przez nim z wolą Bożą. A masz partytury? O Jezu, kochane drogi. Ja nie widzę na oko i nie mam zębów. Finale bellissimo, struggente, potremmo dire, di Eugenik Rudnik. Uno dei personaggi chiave di quella Varsavia inquieta, anch'essa insomma della seconda metà degli anni 60, e che comunque già prima, a inizio trasmissione, si accennava, in effetti soltanto un accenno, agli anni 50, quelli appunto che hanno fatto nascere a Parigi, a Colonia, a Milano, appunto gli studi fonologici famosi, quelli insomma di riferimento per gli studiosi di musica elettronica, e anche a Varsavia, appunto, nasceva Radio Studio Warsaw, molto importante, anche perché passarono personaggi che tra l'altro Rudnik ebbe modo anche di conoscere e di suonare insieme a loro, come Karlheinz Stockhausen, Ligeti, che comunque anche egli dell'Europa dell'Est, diciamo molto più famoso rispetto a Rudnik, anche grazie magari a Kubrick e insomma l'inserimento delle musiche di Ligeti meravigliose, tra l'altro, in 2001, anche in questo caso insomma il cinema quanto ha aiutato. E in Polonia succedevano cose straordinarie anche legate alla musica, al radiodramma, quindi c'era anche questa forte teatralizzazione del vocale. Qua l'abbiamo sentito in forma non tanto collagistica quanto più veramente teatrale, il K-tappa anche utilizzato andava quasi a creare un immaginario appunto da palcoscenico, non si capiva questa spazzatura, se era una spazzatura che immaginiamo, se era spazzatura oppure cosa, Stormtrooper spazzatura. Sì, in effetti insomma in questo senso qua non ci lanciamo in faccende che complicherebbero soltanto il tutto, la vita. Sì, comunque purtroppo, poi concludendo il discorso rispetto a prima, quello che si accennava tra Occidente, quindi mettendo dentro anche il Sud America e invece l'Est Europa, sicuramente le attitudini sperimentali, per quanto insomma vicine, comunque condividevano poi questo aspetto, ma non invece l'aspetto che c'è stato poi per quegli anni lì, soprattutto, cioè questo essere unito soprattutto a livello sociale, cioè quella che era l'avanguardia, poi la seconda avanguardia nata insomma nel dopoguerra nell'Occidente, stava entrando anche in termini di massa, in termini anche rivoluzionari, questo era un collegamento pieno. Parzialmente anche nell'est, se pensiamo alle primavere insomma dell'est, però sicuramente con esiti minori rispetto insomma a quello che è successo in Occidente. Magari potrebbe essere anche un discutibile quello che sto dicendo, però di fatto, insomma, le faccende e qua in Occidente continuarono anche in termini perlomeno controculturali, invece appunto si chiuse anche malamente il tutto. Prima stavamo accennando a Brezhnev, ma potrebbe essere esteso, insomma, a buona parte degli anni 70 per tutta le zone, insomma, che arrivavano fino alla Jugoslavia. E facendo, insomma, questo, come dire, annotazione, me la fai passare come annotazione? Ma sì, dai, come escursus storico, un po' di recupero geografico, storico, politico di un periodo che è stato bello seppellito, perché in realtà c'è, cioè, quella pagina lì, dal crollo del muro di Berlino, le cose partono, molte cose anche in Europa attuali partono da lì, non è che questa è una cosa che hanno cancellato proprio radicalmente, ma qui apriremo veramente degli universi di discussione, di riflessione piuttosto complessi e anche abbastanza lunghi, però sarebbe anche cominciare forse il caso di iniziare a fare delle riflessioni su questa cosa, perché insomma poi abbiamo dei personaggi che adesso si spacciano come grandi personalità dello Stato e che nel passato erano quelli che prima erano a stretto contatto con quei sistemi, poi li hanno condannati, poi sono tornati fuori, sono rientrati dentro, insomma. Tanto hai già capito. Sì, ma tanto stiamo parlando questa sera, stiamo parlando sempre di lui. Di lui e del partito che ha creato sta bella città anche dove viviamo, perché è sempre quello poi il risultato. Però sembra che venga chissà da dove. Appunto. Dalla Luna, da Marte. Luna, da Marte. Comunisti su Marte, fascisti su Marte. Comunque, andando a trovare il prossimo personaggio, anche lui, insomma, viene da una terra che è stata uno dei simboli utilizzati chiaramente dall'Occidente per cominciare a scardinare piano piano ogni pezzetto dei regimi legati al blocco sovietico, cioè la Romania, no? Ve la ricorderete, forse qualcuno se la ricorderà, la bandiera col buco, era famosissima nelle prime rivolte a Ceausescu, quando fu appunto attaccato Ceausescu e c'era il simbolo, no? della bandiera centrale, dove c'era tutto il simbolo del sistema che era stata bucata, no? E stanno molto bene adesso in Romania, cioè non che prima stavano bene, però insomma le porcherie che stanno facendo adesso nell'estero sono abbastanza inquietanti. Un bel passaggio, no? Andiamo oltre. Dalla cacca più puzzosa, forse meno patinata, questa qua un po' pseudo patinata, però è sempre cacca di cioccolato, sì. Ecco, di cioccolato. Non parliamo della Russia, perché lì, allora, Kostin Mirjanu è l'autore che andremo adesso infatti ad ascoltare, un personaggio appunto nato a Bucarest nel 1943, ma poi si è spostato in Francia, dove vive dal 1977, dunque in pieno ancora regime, si era spostato in Francia, ma negli anni comunque dove lui si è formato, negli anni 60, all'Accademia Musicale di Bucarest con Alfred Mendelssohn, Dan Costantinescu e Lazar Octavian Cosma. Da lì ha iniziato a studiare, a portare avanti le sue sperimentazioni musicali e successivamente tra il 67 e il 69 addirittura è diventato studente. Anche lui, come abbiamo visto prima con Rudnick, anche lui studente di Carlisle Stockhausen e Ligeti, dunque troviamo questo collegamento, ma non a caso Stockhausen e Ligeti, che insegnavano molti autori nella fine anni 60, inizio anni 70, erano molto attenti soprattutto anche a grandi musicisti potenzialmente interessanti che provenienti dall'est. Non a caso comunque la Germania è sempre stata una delle nazioni occidentali più attenta comunque agli aspetti artistici legati all'est, dunque una nazione che comunque ha avuto sempre una certa attenzione rispetto ai paesi dell'est. E ci andiamo a trovare, abbiamo trovato questo lavoro molto interessante che andremo ad ascoltare, è Luna Cinese, uscito oltretutto per la Cramps Records. Questo qua ad esempio non lo conosco, mi lasci veramente sorpreso. Luna Cinese mi manca. 1975, dunque ce l'andiamo a sentire, due volte Cramps e ancora un'altra artista dell'est, Kostin Mirjanu. Thank you. Thank you. Costin Mireanu, appunto da Romania, lavoro splendido, stiamo parlando insomma dei primi anni 70, editato poi appunto dalla Cramps Record. Lavoro di grande forza nel saper insomma dipingere panorami veramente metafisici, in questo senso veramente magistrale il lavoro di Costin Mireanu, Luna cinese, in effetti sia di luna si tratta sia di cinese, poi quella Cina lontana che appunto veniva più immaginata che vissuta proprio negli anni 70, poi insomma si è avvicinata sempre di più la Cina, ma sul serio, no? Come nel film di Bellocchio, e la vediamo insomma di fatto tutti i giorni adesso. Tornando invece in Russia, forse non abbiamo ancora trattato i cinesi. Ah, no, I cinesi, no. No, una mezza cosa abbiamo. C'è stata una trasmissione dove sono arrivate delle cose cinesi assurdiste. Invece chiudiamo con un duo di elettronica sperimentale, sempre appunto, ma anche di sound art, perché loro si preoccupano e si interessano anche di sound art, per chiudere appunto questo percorso sonoro e per dare appunto quel collegamento, quel filo rosso tra sperimentatori del passato e sperimentatori nuovi, insomma, degli anni zero. E proprio questi due rappresentano forse l'elemento più, uno dei tre più interessanti della scena elettronica sperimentale russa. Si tratta del progetto Ugol Ratmanov, costituito da Sergei Kniazov e Igor Orlov, che hanno iniziato nel 2008 appunto a Mosca il loro progetto. Hanno iniziato appunto a fare vari concerti in tutta Europa e il loro percorso musicale si aggancia a delle atmosfere, anche dei suoni che ricordano certi synth come lo stesso Hans synth o altri synth comunque figli degli anni 60-70, con questo diciamo gusto nel ricordare questo tipo di suono, ma anche questo tipo di atmosfere, collegandole però a dimensioni più droniche e a dimensioni più legate ovviamente agli anni zero, più legate al digitale, passando anche per dimensioni ambientali e appunto ipnotiche, più connesse anche a un certo rumorismo che è sicuramente esploso in una nuova forma negli ultimi anni degli anni zero. Soprattutto a Mosca. Sì. Sì, soprattutto a Mosca. E questo è un progetto sicuramente da seguire. Noi abbiamo selezionato, hanno fatto uscire fino ad ora due album e due EP. Abbiamo fatto uscire, noi abbiamo scelto, selezionato, non ridere che se no mi deconcentro, lo so, ma comincio anch'io a essere cotto. MGS meno M uguale WY, questo è il disco che poi è il disco di esordio, dove ho selezionato una traccia molto molto interessante, uscito per la Faraway Records. A questo punto noi utilizzavamo, no, questo progetto, questo brano anche per salutare a te e basta però. No vabbè, ma tra l'altro non possiamo neanche fare tanto le comiche, perché guarda l'ora, tra poco due e mezza, se no non riusciamo a mandare più. Hai ragione. Il pezzo, quindi non possiamo neanche fare il siparietto finale. No, niente, così vi lasciamo con l'Est com'era e come è diventato esatto, lasciamo con questo e Bologna com'era e come è diventata, è tutto collegato. Mamma mia, come sei d'arte. No, ma è positivo però in prospettiva, perché Bologna, guarda la Turchia. E Bologna con la Turchia? Pensaci stanotte. Pensate anche voi, ascoltatori, che collegamento c'è tra Bologna e quello che sta succedendo ad Ankara o Istanbul. Perché Dark sei criptico. Ma sì, probabilmente vado adesso, torno nella cripta. Buonanotte. Ciao.